Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo sì anche di Tridico, dello stipendio, ma non in maniera, spero, qualunquista, dello stipendio del presidente dell'INPS, dell'aumento che ha scatenato nel fine settimana numerose polemiche, a partire dal presidente del Consiglio Conte, che ha detto non ero stato informato. Anche qui cerchiamo di evitare, passatemi il termine, qualunquismi sullo stipendio, e però qualcosa al presidente dell'INPS Tridico, ci sentiamo anche di dirla. Allo stesso modo parleremo in apertura anche delle ipotesi non confermate di una revisione dei criteri del reddito di cittadinanza. Ci sono indiscrezioni per cui il presidente del Consiglio avrebbe incontrato il ministro Catalfo e soprattutto il ministro Pisano e anche il presidente dell'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per sostanzialmente gli uffici di collocamento, ancora in ritardo nella digitalizzazione. E avremo anche due paroline per il mitico Domenico Parisi, visto che ci sono state delle segnalazioni da parte proprio di suoi dirigenti, di insomma un rimborso spese su cui poi non ho mai letto, non ho mai avuto chiarezza o contezza. Ma al di là anche qui del rimborso spese, per carità, non voglio anticipare la classifica del venerdì, però lo citeremo. Il problema è che l'ANPAL non si è capito cosa abbia fatto nel frattempo per digitalizzare, cioè per avere le agenzie che si parlano tra di loro, ma soprattutto che sono anche in contatto col mondo del lavoro. Il tema qual è? Il tema è non, a mio avviso, il reddito di cittadinanza come strumento di welfare, l'avrò detto penso 100 volte in questo anno, a maggior ragione in un periodo in cui la situazione economica è gravissima e ci si attendono decine di migliaia di disoccupati quando verrà sbloccata il blocco dei licenziamenti. Per cui una misura di welfare serve per... Il problema è la parte che riguarda il trovare lavoro, cioè le politiche attive. A suo tempo dicemmo forse era il caso di andare a guardare, per esempio, il nucleo familiare e l'età. È chiaro che un cinquantenne che ha perso il lavoro, o un quarantenne, ma anche un 55enne, con una famiglia a carico, ha bisogno di uno strumento di integrazione, come era il reddito di inclusione, ripeto, fatto tardi e male dal governo Gentiloni, però c'è bisogno di uno strumento di integrazione. Altra cosa è iniziare a dire che il ventenne senza un carico familiare che non sta trovando lavoro ha il reddito di cittadinanza, perché quello che viene segnalato da più parti è che sono distorsioni su questo, cioè lavoro nero e nel frattempo percepisce il reddito di cittadinanza da un lato, dall'altro anche l'effetto di dissuasione nel cercare lavoro, perché se la quota che tu del lavoro offerto è vicina, voglio dire 800-900 euro rispetto ai 500 che prendi come reddito di cittadinanza, è chiaro che ti conviene, tra virgolette, fare qualche lavoretto in nero e non andare a cercare lavoro. Lo dico toccando un tema che non deve essere neanche un tabù, non siamo ipocriti, questa situazione esiste. Esiste chiaramente in proporzione laddove il reddito di cittadinanza è percepito di più, e quindi nelle tre regioni del sud, Calabria, Sicilia e Campania, il rischio, per non dire, in alcuni casi li abbiamo verificati, c'è la certezza, ma il rischio è altissimo, anche perché nella formulazione attuale si prevede nella parte delle politiche attive che tu abbia 18 mesi, tu possa rifiutare due offerte per i primi 18 mesi. E poi invece devi accettare anche la prima offerta. Il problema è che in questo periodo, 18 mesi, con la possibilità di rifiutare due offerte, significa dare di fatto la garanzia quasi totale che uno continuerà a percepire il reddito di cittadinanza. Ripeto, non è in questo momento un problema di non dare degli aiuti di welfare che sono fondamentali, anche il reddito di emergenza va in questa direzione. Il problema è capire se ha un senso l'operazione invece voluta da Tridico e anche Parisi, e cioè la parte dei Navigator, per farci capire. I 2850 Navigator scadono come contratto il 30 aprile 2021, sono 500 milioni stanziati dal governo giallo-verde a suo tempo. Lo stipendio di un Navigator è di 27.300 euro lordi l'anno, più 300 euro lordi al mese di rimborso trasferte. Comunque, ne parleremo, ripeto, distinguendo tra le due cose. Poi parleremo della vicenda Ilva sul fronte soprattutto di ArcelorMittal, e chiuderemo, continuando con i settori produttivi, ce ne stiamo occupando ormai da intere settimane, parleremo in questo caso della settimana della moda che si è conclusa al di là delle polemiche francesi a Milano. Chiaramente è stata una settimana molto particolare, 64 eventi di cui 41 in digitale e 23 in presenza fisica, e l'86% delle persone intervistate ha avuto un calo del fatturato nel secondo trimestre, solo il 10% ha avuto un calo inferiore al 20%, in media il calo del 39%. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio24 e la diretta su Facebook. C'è tutta la parte del reddito di cittadinanza che riguarda invece il lavoro, diciamo, socialmente utile, perché c'è anche la disposizione in cui i comuni possono chiedere il lavoro socialmente utile, ma anche, ripeto, anche di questo parleremo, vedo che qualcuno me lo sta segnalando. Andiamo avanti con le notizie in breve, partiamo dalla borsa come sempre. Più 2,33% Milano, oggi c'è un netto recupero di tutte le borse, più 2,36% Parigi, più 3,10% Francoforte, più 1,70% da questo punto di vista Londra. C'è i titoli bancari soprattutto che stanno andando bene, al di là di Amplifon più 6,20%, Saipem più 5,80%, Buzzi più 5,11%, segnala Unicredit più 4,80% come banca generali, le generali più 4%. Fiat Chrysler più 4, Mediobanca più 4, Tenaris più 4, CNH Industrial più 3,80% come A2A, il 3,60% lo guadagna Azimut, il 3% Pirelli Campari, il 2,90% è il rialzo di Leonardo, ma anche di ST Microelectronics. Di negativo c'è solo Atlantia, ha visto lo stallo con Cassa Depositi e Prestiti, meno 1,33%, vediamo se si arriverà a un accordo tra le due parti. Il governo ha minacciato di nuovo la revoca della concessione. Abbiamo spiegato la settimana scorsa che lo stallo riguarda soprattutto un elemento, cioè la Cassa Depositi e Prestiti per entrare nel capitale di Autostrade per l'Italia con l'uscita di Atlantia vuole la manleva, cioè la garanzia che tutto un insieme di cause risarcitorie che potrebbero, o in alcuni casi sono già state avanzate da cittadini, soggetti, in seguito al crollo del Ponte Morandi, non vadano a essere caricate sul nuovo assetto azionario, sul nuovo azionista di riferimento. È una cosa che si fa sempre quando c'è un passaggio, diciamo, di controllo societario, quindi la posizione di Autostrade di Atlantia è abbastanza singolare. Io non sto dicendo non mi sostituisco alla magistratura, vedremo, verranno accertate le responsabilità dalla controllante che dovrà fare le verifiche sulla sicurezza del Ponte Morandi, la responsabilità di Autostrade per l'Italia, ma che l'azionista che subentra, come spesso si fa, faccia una due diligence e chieda la manleva per azioni, per cause che sono state intentate nella precedente gestione o che potrebbero essere intentate riferite alla precedente gestione, mi sembra una cosa normale. Veramente è difficile capire la posizione di Atlantia e dei Benettoni in questo caso. Notizie di carattere internazionale. Allora, vabbè, al di là della polemica negli Stati Uniti, perché il New York Times ha scoperto che Trump non ha pagato tasse per 10 anni negli ultimi 15 anni Trump ha ribadito lo scoop del New York Times è inaccurato, io ho pagato decine di milioni di dollari in tasse personali al governo federale, solo fake news. Da questo punto di vista ho visto anche alcune polemiche ancora sulla dichiarazione, su quanto ricordato la settimana scorsa, dando ragione a Trump sull'attacco alla Cina, nel senso che la gestione cinese ha peggiorato la situazione. Guardate, qualcuno continua a dirmi: ma lei come fa a difendere Trump? Io non difendo Trump, ho semplicemente detto che se dice una cosa giusta non è che secondo me Trump bisogna per forza dire che ha sbagliato, e che la Cina non abbia lasciato alcun tipo di trasparenza al di là dell'Organizzazione Mondiale della Salute, che insomma è accusata a mio avviso giustamente di essere troppo filo cinese anche per le sovvenzioni che riceve, che la Cina non abbia mai aperto una trasparenza come in altri casi, gli Uiguri o piuttosto che Hong Kong, ma in questo caso sui motivi, su come si è scatenata la pandemia, sul perché l'epidemia prima e poi pandemia, sul perché con i primi casi già segnalati a inizio novembre non vi sia stata una comunicazione se non a inizio gennaio, con minimizzando tutto. Allora, il problema, lo dico a chi continua a dire non c'è nessuna differenza tra Trump e la Cina, guardate che una democrazia, per quanto possa non essere, non far impazzire, possa anche avere esiti elettorali che non piacciono, ma qualunque democrazia, anche quella diciamo che nomina persone che a noi possono sembrare non particolarmente adatte, è meglio della più efficiente delle dittature, anche perché poi le dittature difficilmente restano efficienti quando non hai un ricambio di classe dirigente. Su questo voglio rubare un pezzettino di una bellissima analisi che ha fatto Milena Gabalelli sulla rubrica Data Room sul Corriere della Sera, perché invece che parlare io, tanto l'ho già detto quello che penso, ascoltiamo la Gabanelli e poi andiamo avanti. L'assenza di libertà di parola ha favorito il diffondersi del contagio. A dirlo è un luminare del diritto dell'Università di Pechino, He Weifang. A ribadirlo il suo collega Hu Zhongrun, arrestato. Tappata la bocca al medico Li Wenlang, che per primo scoprì il coronavirus. Le conseguenze di un mese e mezzo di silenzio dal primo malato di Covid hanno travolto 188 paesi, ad oggi oltre 900.000 morti. Tutto qua, no. Nel senso, poi qualcuno ancora vuole difendere, diciamo, il modello cinese in cui insomma la trasparenza è tutto tranne che esistente. Qualcuno mi dice: ma guardi che hanno adesso i numeri. Io abbia pazienza. Mancando ogni trasparenza in Cina, io non mi fido neanche dei numeri, sarò scettico ma non mi fido dei numeri. Quando la Cina a metà gennaio con Xi Jinping dice che è ancora tutto da valutare la trasmissibilità tra uomo e uomo, no? Dai. Comunque andiamo avanti sull'Europa, proseguono i negoziati per la Brexit. L'Unione Europea ha detto che valuta le azioni legali per avere contro la Gran Bretagna per avere cambiato il termine dell'accordo firmato l'anno scorso, ma il negoziato prosegue e la stessa Unione Europea dice che c'è bisogno di accelerare i negoziati. Andiamo all'Italia. Allora, la Confagricoltura, oggi parliamo in parte di agricoltura perché la Confagricoltura ha compiuto 100 anni, celebrazioni alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei ministri Teresa Bellanova e Stefano Patuanelli, della sindaca di Roma Virginia Raggi. Ha detto il presidente di Confagricoltura Massimo Giansanti: l'agricoltura italiana ha bisogno di uno scatto e vista la presenza del presidente del consiglio e di due ministri chiediamo una strategia per l'agroalimentare di carattere nazionale, così come ha ribadito a margine dell'evento al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos, ricordando che il comparto vale oggi 140 miliardi di PIL. La storia dell'agricoltura italiana è passata dalle guerre, è passata dalla trasformazione da un'azienda, da un'azione basata sull'agricoltura all'industria. Siamo passati da 6 milioni di addetti in agricoltura a 1 milione. Però nonostante tutto, dopo 100 anni ci siamo accorti che l'agricoltura è ancora centrale. L'agroalimentare è il primo comparto dell'economia nazionale, vale 540 miliardi di PIL e credo che questo sia un dato importante su cui dobbiamo riflettere nel prossimo futuro. Per questo la storia non finisce qui, ma anzi riparte da qui. Per noi l'obiettivo è quello di dare veramente un grande contributo alla nazione, sia in termini di autosufficienza alimentare, ma di grandi risultati sui mercati esteri. Dobbiamo far crescere molto la produzione nazionale e soprattutto la nostra capacità competitiva sui mercati. Il Made in Italy è ben voluto nel mondo, tutti ce lo invidiano. L'Italian Sounding è solo un'opportunità, sta a dimostrare che dobbiamo cercare di aumentare la nostra produzione. Le sfide del futuro, non solo la globalizzazione, la concorrenza sleale, ma anche i grandi cambiamenti climatici. Ecco, quali sono le priorità per il prossimo futuro? Ma da una parte certamente gli effetti climatici stanno sempre di più dando una forte spinta alla variabilità produttiva. Su questo ovviamente e anche alla variabilità dei redditi degli agricoltori, su questo dovremmo intervenire attraverso strumenti assicurativi in grado di dare delle risposte, dall'altro attraverso le tecnologie applicate all'agricoltura e soprattutto grazie alla ricerca studiare delle tecnologie in grado di prevenire quelli che sono i danni del cambiamento climatico, e su questo dovremmo fare un grande attenzione a quelle che sono le possibili già oggi tecnologie che si possono utilizzare per preservare le risorse naturali, sfruttarle meglio, usarle meglio, e su questo credo sia il grande impegno degli agricoltori. E sempre in tema non tanto di agricoltura ma di recovery fund, di recovery plan, il Presidente del Consiglio Conte ha detto non siamo in ritardo con il piano, c'è un dibattito fuorviante, delle preoccupazioni infondate. Sentiamo Conte. Più in generale il nostro piano di ripresa, di resilienza sarà dedicato a costruire un mosaico coerente di interventi ai quali stiamo già lavorando, anche per aiutare le filiere strategiche del Paese ad essere quindi protagoniste di questa straordinaria stagione di rilancio. Il dibattito che in questi giorni si sta sviluppando sugli organi di stampa ancora offre un dato un po' fuorviante che dobbiamo correggere. Non siamo affatto in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Una preoccupazione in questo senso è assolutamente, le preoccupazioni sono infondate, perché il piano sarà presentato nei termini indicati dalla stessa Commissione europea e ricordo che a metà ottobre potremo presentare le linee guida e i progetti andranno elaborati e poi presentati solo con l'inizio del nuovo anno, e questo è il cronoprogramma che si è data la Commissione europea. Ma il Governo sta già lavorando con gruppi coerenti di progetti. Con particolare riguardo al settore agroalimentare, sono molte le linee di intervento che vi anticipo saranno incluse nel piano, il quale, e conviene sottolinearlo, dovrà dedicare almeno il 37% del volume delle risorse disponibili a progetti green. Allora, invece... Tra l'altro sul recovery devo dire una cosa a chi mi scrive, vedo che c'è ancora polemica sul MES, sappiamo che l'Unione Europea ha 4 strumenti di intervento, a cui si somma il 5° che è la Banca Centrale Europea che continua a comprare titoli, li ricordo sempre, Sure, a cui l'Italia dovrebbe andare 21,7 miliardi per le politiche sul lavoro, cassa in finanziamento, cassa integrazione, non solo. Il MES per le spese di carattere sanitario per fronteggiare l'epidemia, non le spese di carattere infrastrutturale, ma che dove entrano anche quelle indirette, quindi anche... le spese per i plessi scolastici, per mettere in sicurezza i plessi scolastici, la Banca Europea degli Investimenti e il Recovery Fund, che ha la fetta più grossa. Ora, io dico una cosa a chi continua a contestare il MES. Guardate che il Recovery Plan ha molte più condizionalità del MES Covid. Cioè qua sembra che il recovery lo si possa prendere, arriverà a metà anno tranquillamente. È pieno di condizionalità, tant'è che il rimettere in discussione quota 100 da parte del governo rientra in quello che chiede l'Europa. L'Europa non ti chiede solo di spendere quei soldi nel recovery per le tre macro voci, no? Politiche di coesione, verde, dove entrano anche le infrastrutture e digitalizzazione. Ti dice anche parallelamente di andare avanti con un insieme di riforme, tra cui un sistema pensionistico più, per esempio, che regga meglio, ed è da lì quota 100. Quindi è pieno di condizionalità anche il recovery, molte più rispetto al MES. Se poi qualcuno ormai, perché gli si è rotto il disco, ha deciso in maniera del tutto ideologica, senza studiare, senza andare a leggersi le carte, che il MES Covid sia pieno di condizionalità, neanche facendo un paragone con il recovery, io veramente non lo capisco. Faccio notare che Gentiloni oggi ha detto che per l'Italia c'è un vantaggio maggiore che per altri, e oggi anche poco fa anche il ministro Amendola ha fatto notare che per accedere ai fondi del MES c'è tempo fino a dicembre. Il PD continua a accelerare su questo. so che la risposta di alcuni è: ma andiamo a trovare quei soldi che ci verrebbero dati sul mercato. Allora attenzione, perché il mercato adesso è basso grazie anche alla Banca Centrale Europea, però il MES funziona in maniera tale per cui tu hai un risparmio più o meno di 500 milioni di interessi l'anno, per 10 anni sono circa 5 miliardi di interessi. Ma soprattutto, lo dico ai grandi esperti, il mercato, i tassi di interesse sono bassi adesso perché c'è il piano PIP della Banca Centrale Europea, compra titoli di Stato, tiene i tassi di interesse a zero, i tassi sono a zero. Siamo sicuri che andrà avanti così per i prossimi 10 anni? Che quando l'emergenza sarà finita fra 2 anni i tassi non torneranno a salire, quindi il non aver fatto eventualmente ricorso al MES ci costerà ancora di più? Cioè, voglio dire, non è che la situazione attuale di tassi negativi a zero possa andare avanti a lungo, a meno che non vogliamo immaginare che fra 10 anni saremo ancora con il Covid. Per cui attenzione a fare queste deduzioni. I mercati ti finanzi adesso a questi tassi, fra 3 anni vediamo. Quanti paesi hanno diritto al MES? La Spagna ci sta pensando, è un buon motivo per non farlo, per carità. Allora andiamo a vedere anche sul recovery. Il commissario all'economia Paolo Gentiloni così ha risposto a una domanda sul MES oggi a Bruxelles. Io ho ripetuto più volte che il lavoro che abbiamo fatto qui a Bruxelles è stato quello di togliere a questa speciale linea di credito del MES le condizionalità che erano nei programmi economici generali dello scorso decennio. Quindi possiamo dire che oggi questo prestito per gli paesi che lo chiederanno è un prestito che non è soggetto a condizionalità. La decisione spetta ovviamente ai singoli governi. Certamente l'Italia ha bisogno di migliorare il proprio sistema sanitario, che ha dato un'ottima prova nel corso della crisi, ma ha messo in luce anche la necessità di miglioramenti e aggiornamenti. E certamente l'Italia è tra i paesi che possono avere da questi prestiti, visti i nostri tassi di interesse, un vantaggio relativamente maggiore rispetto ad altri paesi. Allora, mi chiedo un ascoltatore: perché il Covid c'entra con i tassi bassi? Non c'entra nulla. No, guardi, il punto è questo: siccome c'è una recessione pesantissima in atto, le banche centrali, la Banca Centrale Europea tiene i tassi bassi e ovviamente li terrà finché il segno è meno. Io sto solo dicendo che se nel 2023, come tutti ci auguriamo e tutte le previsioni, saremo tornati a crescere, avremo recuperato i livelli del pre-Covid, difficilmente le banche centrali potranno tenere i tassi a questo livello. Qualcuno inizierà a dire: beh, rientriamo un po' in una politica di normalità. Ecco quello che sto dicendo. Però non è solo Gentiloni, anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento, ha detto: attenzione, da un punto di vista economico il MES ha solamente vantaggi, non si va su... lo dice il governatore della Banca d'Italia, poi per carità magari ne sa di più qualcun altro. Ma cito testualmente: il MES ha solamente vantaggi, non si va sul mercato, è a lunga scadenza e a condizioni buone. L'unica condizionalità è spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato questo fondo. Non vedo gravi problemi a usarlo, l'unico potrebbe essere quello dello stigma. Ma lo stigma è legato a un cattivo utilizzo dei fondi o a una cattiva comunicazione. Mi chiedo perché uno ha paura di mostrare che utilizza bene dei fondi, anzi, se lo mostra, ha maggiore facilità di raccolta sul mercato a condizioni migliori di quelle che ora, pur migliorate, non sono ancora vicine a Spagna e Portogallo. E qui rispondo in parte, usando Visco, ad alcuni ascoltatori. È chiaro che la Spagna e Portogallo in questo momento hanno tassi di interesse ancora più bassi, per cui hanno ancora meno interesse. Comunque, e poi Visco ha chiesto di recuperare i ritardi e vorrebbe che praticamente tutto, quasi il recovery, fosse utilizzato in istruzione e ricerca. A questo proposito, oggi è uscita, visto che parliamo di istruzione, anche la classifica del Financial Times delle migliori lauree a livello internazionale. E al 9° posto c'è la laurea magistrale in management alla Bocconi di Milano, il School of Management del Politecnico di Milano si piazza al 3° posto in Europa, mentre molto bene anche altre università italiane, sono ben visto anche il Politecnico di Torino. Nello specifico al primo posto la Svizzera con Sam Gallen, la Francia con l'EC di Parigi e sempre anche l'ESSEC Business School in Francia al terzo posto. Stiamo parlando di Master in Management soprattutto, poi la London Business School al quarto posto, la Rotterdam School of Management al quinto posto, la francese, spagnola, italiana ESCP Business School al sesto, settimo posto, Stockholm School of Economics svedese, University College of Dublino all'ottavo e poi la Bocconi, lo SDA Bocconi al nono posto. A questo proposito oggi, visto anche qui al Sole 24 Ore, è stato presentato il piano strategico del Politecnico di Milano per far ripartire l'università nonostante la pandemia, con un'alleanza europea per far competere il nostro sistema universitario con quelli di Cina e Stati Uniti su scienza, tecnologia, ma anche sulla formazione economica. La nostra Maria Piera Cecci su questo ne ha parlato con il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. La politica ha sì il compito di definire quali sono gli obiettivi e deve sceglierne pochi, non migliaia, pochi, ma poi deve fare progettazione, pianificazione ed esecuzione. Quindi al recovery plan scelga la politica quelli che sono gli obiettivi principali. Naturalmente io per il mio mestiere dico formazione e ricerca sono quelli più a lungo termine, i meno popolari sicuramente, però qualunque siano gli obiettivi, poi però portiamoli a terra e facciamo la fase di esecuzione. I meno popolari in realtà in questo periodo sono molto popolari perché sono sulla bocca di tutti, ma il rischio è che restino sulla bocca di tutti e non ci sia poi una concretizzazione. Io credo che non ci sia nessuno nel nostro paese, in Europa, che non dica che la formazione dei giovani e la ricerca di soluzioni per rispondere alle sfide sociali sono una priorità. Spesso però quando ci sono le emergenze, quando c'è da risolvere il problema sul breve termine, ci si perde un po' sul breve dimenticando il lungo. Oggi il recovery plan è una delle uniche possibilità che avremo nei prossimi 20 anni per guardare lontano, quindi naturalmente tutte scelte impopolari, più impopolari sono più probabilmente sono lungimiranti. Una sfida che va raccolta insomma anche per la nostra politica. La sfida. Allora, la pandemia al momento non ha avuto ripercussioni sulle iscrizioni universitarie, i primi dati ci dicono questo ed è un'ottima notizia perché invece si temeva che comunque ci potesse essere qualche conseguenza. Dal punto di vista del Politecnico che cosa state osservando? Ad esempio parlo dei fuorisede, visto che c'è la possibilità di seguire a distanza le lezioni, avete notato che c'è una maggiore difficoltà dei ragazzi o una scelta comunque da parte delle famiglie, per esempio di lasciare i propri ragazzi nella regione di provenienza e seguire le lezioni del Politecnico a distanza, che come dicevamo prima è comunque perdere qualcosa dell'esperienza universitaria, oltre che ovviamente non parliamo neanche delle conseguenze sulla città di Milano. Le immatricolazioni si sono mantenute costanti, anzi sono aumentate anche in risposta a effettivamente delle misure che come sistema universitario nazionale e come governo, quindi come ministro Manfredi, sono state fatte di attenzione alla contribuzione studentesca. C'è meno mobilità, paradossalmente c'è meno mobilità sul pendolare rispetto a sul lunga percorrenza, cioè vediamo gli internazionali che crescono e che vengono a Milano e invece chi deve prendere un treno è ancora un po' spaventato. Dove dobbiamo andare? In un'università in presenza. In qualche maniera nasceranno academy, nasceranno telematiche, nasceranno altre forme di formazione universitaria, saranno molto specialiste, saranno molto verticali, ma la formazione che dà l'università con la U maiuscola, fatemi dire, cioè quella di crescere la persona, sarà solo ed esclusivamente in presenza. In 6 mesi i medici e gli infermieri si sono alzati la mattina e sono andati in ospedale. In questo momento spetta agli insegnanti, ai docenti andare all'università e spetta agli studenti, perché naturalmente il nostro paese ha bisogno di vita, di relazioni sociali per far ripartire economia in sicurezza. Allora, devo dire che il dibattito sul MES è interessante perché vi leggo solo un messaggio che mi è arrivato. Il disco rotto siete voi, avete rotto i col MES, che te ne viene Barisoni in tasca a promuovere il MES, schifoso di un uomo venduto. Lo Stato italiano vuole finanziarsi, va sul mercato come tutti, Barisoni fa schifo al CA, ammazzati per favore, così non ti sentiamo più, via show. Ma mi sembra un bel modo di argomentare, diciamo, da parte dei... di chi è contrario al MES. Se riesce ad aggiungere anche qualcos'altro, lo dico perché insomma è accettabile questo linguaggio, boh, da nessuno. Se riesce anche a argomentare qualcos'altro rispetto a quello che ho detto io, non ho detto che lo Stato non possa indebitarsi sul mercato, lo stiamo già facendo ogni giorno, però se qualcuno ti offre un tasso più interessante, non so, mi può dire perché no, quali condizionalità, tutto qui, con la stessa pacatezza con cui rispondo io. Sì, caro mio. Allora, ultima notizia, poi andiamo sul meteo. Il concorso, c'è polemica tra PD che vuole rinviarlo e i 5 Stelle che vogliono mantenerlo. 5 Stelle dicono no al rinvio del concorso straordinario. Ad ora il concorso si farà il 22 ottobre per 32.000 posti per i precari che hanno svolto almeno 3 anni di servizio. 64.000 le domande arrivate. Sempre la nostra Maria Piera Ceci ha raggiunto Maddalena Gissi della CIS Scuola dopo che questa mattina si è tenuto l'incontro fra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati, e la Gissi ricorda che i sindacati avevano chiesto di evitare il concorso e scegliere un'altra procedura più snella. Un'immissione in ruolo con una formazione in servizio e una valutazione da parte dei dirigenti scolastici, da parte di una commissione esterna. Questo per portarli in cattedra immediatamente. E certo, quando ci ritroviamo con l'appello, abbiamo letto proprio ieri l'appello dell'Emilia Romagna, il direttore regionale, l'appello del Lazio, l'appello della Lombardia, abbiamo regioni veramente senza personale. E poi perché un concorso comunque richiede delle misure di sicurezza importanti, forse difficili anche da seguire? Bisogna trovare laboratori informatici, bisogna trovare commissari, un dispendio di energie anche economico, veramente inutile, anche perché questo personale, se anche non dovesse superare questo concorso, lo ritroveremo come supplente l'anno prossimo, perché ci saranno altri 50.000 pensionamenti, quindi altro che concorsi, ce ne vorrebbero almeno altri 2 banditi successivamente e realizzati almeno in un anno. Allora, adesso andiamo sul meteo, pubblicità, poi parliamo di Tridico, di Parisi, delle ipotesi di fare il tagliando al reddito di cittadinanza, così l'ascoltatore sarà contento. Chi continua a darmi dello schiavo, vabbè, sarebbe interessante vedere lei che rapporto ha con il suo datore di lavoro. Sono sicuro che lei invece è sicuramente un uomo libero, caro mio. Spartaco 349-238-6666 per sms e whatsapp. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Figuratevi, sono intenzione di ripetere e di rispondere all'ascoltatore, ha già avuto sufficiente notorietà. No, invece andiamo su Tridico, vediamo di chiarire il punto. Allora, qui è inutile scandalizzarsi per lo stipendio, cioè io ritengo che personalmente, è una mia idea, che quando tu devi gestire sostanzialmente 17 milioni di persone, di pensioni, scusatemi, 200 miliardi di euro, è giusto che tu abbia riconosciuto uno stipendio. La riforma mette il tetto per le società non quotate in borsa 240.000 euro. Paolo Savona, che pure è in pensione ma si è trovato un modo per aggirare la norma, prende 240.000 euro come presidente della Consob, e il direttore generale dell'Agenzia Nazionale del Farmaco Magrini 222.000 euro, e via così. E poi ci sono 40 dirigenti dentro l'INPS che guadagnano più di Tridico, 240.000 euro l'anno. Quindi non, a mio avviso è sbagliata la polemica sui 105. Il mitico Mastro Pasqua, si fa per dire, prendeva 1.200.000 euro. È vero che Boeri, il predecessore, prendeva 105.000 euro, ma a suo tempo fu fatta una separazione perché la Lega ottenne il numero 2 dell'INPS, visto che Tridico era professore di Roma Ter in quota 5 stelle suggerito da Di Maio, e disse a Tridico 62.000 euro e gli altri 40.000 al vice. Poi Adriano Morrone, però poi c'era questo accordo per arrivare a 150.000 euro, che Tridico ha detto non è retroattivo. Guardate, il punto secondo me non è inchiodare Tridico sulla cifra in sé, perché non facciamo gli ipocriti. Se tu fai presidente dell'INPS e lo fai bene rispetto a altri, potrei fare l'elenco, stipendi da 240.000 euro, non è quello per cui uno si deve scandalizzare, okay? Quello che però io avrei personalmente consigliato a Tridico, le dimissioni le abbiamo chieste non per questo caso, abbiamo chieste quando ci fu il disastro del Click Day, avrei detto: guardate, io dovrei avere 150.000 euro, cioè raddoppiare il mio stipendio, però visto che mancano ancora decine di migliaia, 200.000 le stime, 226.000 le stime oggi, adesso lo facciamo ascoltare ai nostri microfoni Guglielmo Loi, presidente del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza dell'INPS, visto che mancano ancora centinaia di migliaia di casse integrazione da pagare, e o abbiamo sfiga noi o li conosciamo tutti noi gli imprenditori che stanno ancora aspettando che lì la casa integrazione l'hanno anticipata, in alcuni casi proprio non è neanche mai arrivata, avrei detto guardate, io rinuncio a prendere questo aumento, lo sospendo finché l'ultima delle casse integrazione non verrà pagata. Ok, molto semplice, Tridico, perché siccome è un aumento che arriva in un periodo di Covid in cui la gente non arriva a fine mese, in cui i datori di lavoro hanno dovuto anticipare la cassa integrazione, in cui i 600 euro sono arrivati delle volte male, delle volte a singhiozzo, quello benissimo è un periodo particolare, Tridico, no? E lei, voglio dire, ha già comunque una grossa notorietà, era un professore, diciamo, non noto ai più di Roma Ter, dico semplicemente questo. Allora rinuncio in attesa che tutte le casse integrazioni di maggio e aprile vengano erogate. Okay, sì, questo è populista, mi dice uno, vabbè, è populista. No, bastava un gesto del genere. Comunque, stiamo sulla notizia. La notizia non sono i 150.000, è qual è il ritardo ancora dell'INPS. Sentite appunto a 24 mattina, questa mattina, con Simone Spezia e Guglielmo Loi, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, che dice la cifra è proporzionata, ma è mancata la comunicazione, e quello la penso esattamente così. E poi dice: attenzione, ci sono 200.000 domande di cassa integrazione ancora in attesa. Sì, c'è ancora un intoppo, e anche qua torniamo un po' al discorso della trasparenza. Il professor Tridico, l'INPS per mesi ha elaborato tabelle, preannunciato, come dire, anzi ha dato dati sul pagamento, come vede da, diciamo, dal periodo dello scivolone sul pagheremo tutti entro, non so se ricordate, dall'istituto non esce più niente. Noi come consiglio di vigilanza riusciamo a elaborare alcune tabelle. Che cosa dicono queste tabelle? Che il differenziale tra le domande presentate e quelle autorizzate è ancora alto. Certamente siamo coscienti che l'alto deriva anche dal... Alto quanto, Loi? Beh, insomma, siamo intorno ai 200.000 domande, che naturalmente non vuol dire che sono tutte in ritardo da aprile-maggio. Cioè domande più recenti, e ce ne sono alcune invece domande più, tra virgolette, anziane. Quindi, diciamo, c'è una parte alta che ritarda di un mese, alcune parti meno alte ma significative di un paio di mesi. E quello che temiamo è che con il decreto di agosto si accumulano domande con procedure più difficili. Insomma, il legislatore ci mette del suo a non semplificare, e l'istituto forse non ha reagito abbastanza nel chiedere al legislatore di fare procedure più semplici. Questa è la sostanza. Per me, se Tridico riesce a esaurire, cioè a risolvere tutte le casse integrazione sospese, può prendere anche 200.000 se fa un lavoro straordinario. Ragazzi, non fermiamoci su i 60 e 100.000, fermiamoci sul fatto che poco fa sempre l'istituto, cioè sempre il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, Loi, ha ricordato che il numero di test è molto più alto, perché ci sono 51.000 pratiche di casse integrazione ordinaria che aspettano, 140.000 di casse in deroga e 36.000 che fanno riferimento ai fondi di integrazione. Però attenzione, il numero di lavoratori interessati è superiore al numero di domande, perché c'è più di una testa dentro, circa il doppio, quindi stiamo parlando di 500.000 complessivamente di persone. Non concentriamoci su questa cosa populista dello stipendio, ma me frega niente che Tridico prenda 20.000 euro se poi deve essere un incompetente, ne diamo 200.000 ma risolve il problema della cassa integrazione. Basta con sta logica della casta. Occorre gente professionale, competente, che venga pagata bene. Smettiamola con sta roba dell'uno vale uno, che ha fatto solo disastri in questo paese. Traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presenta Focus Economia. Oh, adesso passiamo invece al reddito di cittadinanza. Riesco solo a accennare, perché poi al GR24 è tornata la pubblicità, per fortuna. Valentina Melis, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te e ascoltatori. Voi avete due pagine oggi sul Sole del lunedì, proprio sulle come funziona il reddito e e possibili revisioni. Dammi subito il titolo, ma è vero che diciamo, il Premier Conte starebbe pensando a magari bypassando anche, anche Parisi, una revisione del reddito, del suo funzionamento, politicamente parlando almeno? Allora, a noi questa cosa non è stata confermata dalle fonti del Ministero del Lavoro, anche perché in questa fase appunto il Ministero del Lavoro ha i dossier degli ammortizzatori, della cassa e di tanti altri argomenti aperti. Politicamente è molto sensibile andare a toccare una prestazione che spetta 1.300.000 famiglie e quindi hanno una platea di 3 milioni di beneficiari. Il titolo è che le offerte di lavoro arrivate dai navigator, questi 3.000 operatori che affiancano gli operatori dei centri per l'impiego, sono 220.000 su uno zoccolo, diciamo, di persone potenzialmente abili al lavoro, work ready, come dice Parisi, che è di 1.200.000 persone. Quindi è come se ci fosse un'offerta ogni 5. Ma offerta allora, vuol dire non che è stata accettata, giusto? È solo no, che è arrivata. I lavoratori che hanno avuto un contratto sono okay. 196.000, però sempre pochi, ne conviene rispetto alla platea. Allora resta con noi, perché dopo GR24 vorrei capire appunto che cosa non sta funzionando nell'ANPAL, se nel frattempo si è ammodernato il sistema delle agenzie del lavoro. Sì, citerò anche le note spese di Parisi, ma anche qui, vabbè, quelle sono obiettivamente meno digeribili. E che cosa manca? Perché appunto un tagliando andrà fatto a sto reddito che continua a difendere come forma di welfare per chi ha una povertà cronicizzata. Qui parliamo della componente che riguarda trovare lavoro, poi mi interessa anche le ore di servizi socialmente utili. 349-238-6666 per SMS. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti i mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti, torniamo con Valentina Melis sul tema del reddito di cittadinanza, le due pagine di oggi sul Sole 24 Ore. Ripeto, la misura di welfare va benissimo ed è fondamentale, però siccome ai dati a settembre 2020 ha raggiunto 1.120.000 famiglie, quasi 3 milioni di persone, poi ci sono le famiglie che percepiscono la pensione di cittadinanza sopra i 65 anni, 136.000. È chiaro che è cresciuto da gennaio a oggi il numero dei richiedenti, con la crisi era immaginabile, più 26%, 37.000 nuovi beneficiari solo nel mese di agosto. Però di queste 3 milioni di persone, 1.230.000 hanno firmato il patto di servizio, quindi sono potenzialmente pronte a lavorare. E come ricordava Valentina Melis, solo 196.000 hanno poi effettivamente sottoscritto un rapporto di lavoro. Ora Valentina, al di là di quello che mi scrive un ascoltatore che fa il commerciante di ortofrutta a Vicenza, non riesce a trovare commessi, già 4 mi hanno chiesto di non rinnovargli il contratto dopo 6 mesi perché preferiscono rimanere a casa con il reddito di cittadinanza, cioè al di là delle distorsioni che possono arrivare e al di là degli abusi che insomma poi sono sanzionabili, sono da sanzionare. E anche al di là della polemica che ha coinvolto il presidente dell'ANPAL, Domenico Parisi, lui insegnava negli Stati Uniti, tra l'altro due dirigenti dell'ANPAL, della Commissione del Lavoro, della Conferenza delle Regioni, hanno mandato delle lettere sulla mancata rendicontazione delle sue spese personali per oltre 160.000 euro, 71.000 euro per viaggi Roma-Mississippi in business class, 55.000 euro per noleggio auto con autista, 32.000 euro per un appartamento ai Parioli, 5.000 euro per spostamenti in Italia, 3.000 euro per pasti. Parisi, insomma, si può risparmiare un po' di più su questa nota spesa, glielo dico perché le firmo anch'io. Ma al di là di questo, com'è la situazione dell'AMPAL, cioè delle agenzie di collocamento su cui poi si appoggiano i navigator, dialogano tra di loro, perché poi è chiaro che se non riesci a incrociare domande e offerte è un casino, e poi ti chiederò anche invece dei lavori socialmente utili. Valentina. Allora, un problema molto complesso e tu ne hai sottolineato diversi aspetti. Allora, partiamo dal fatto che riformare le politiche attive è una priorità per il nostro paese da decenni, tanto è vero che anche nel 2015 all'interno del Jobs Act uno dei decreti legislativi legati al Jobs Act, il 150, prevedeva proprio di ridisegnare tutte le politiche attive, ovvero i centri per l'impiego che hanno poco personale e funzionano male. Adesso la sfida in corso è portare il personale da 8.000 unità a 16-20.000. I concorsi li stanno facendo, ci spiegava l'assessore alla Toscana Cristina Grieco, che è anche il coordinatore degli assessori regionali al lavoro, che i concorsi li stanno facendo. Quindi il primo passo è potenziare i centri per l'impiego. I navigator, che sono questi 3.000 operatori che si sono aggiunti con un contratto biennale che quindi scade ad aprile dell'anno prossimo, per prendere in carico i percettori del reddito di cittadinanza, hanno potuto dare un contributo, ahimè, un po' limitato, perché c'è stato anche, a parte che prima che entrassero in servizio ci sono voluti dei mesi perché anche loro sono stati formati, e poi c'è stato il Covid che ha sospeso tutte le i colloqui e tutti i percorsi di inserimento al lavoro dal 17 marzo al 17 luglio, dal 17 maggio, scusate, al 17 di luglio. Quindi diciamo che ci sono stati vari intoppi. Il problema delle politiche attive, quindi del mismatching tra domanda e offerta, esiste, ma non si può risolvere con un'app o con un sistema informatico, perché, come ci spiegavano in questa inchiesta i nostri interlocutori, ci sono persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e che non è che si possono mandare a lavorare immediatamente, perché vanno formate, gli va fatta una certificazione delle competenze, cioè non c'è questo automatismo tra il reddito e la possibilità di lavorare. Poi, come dicevi tu, e anzi come diceva l'ascoltatore, una prestazione come quella del reddito di cittadinanza, che non decresce nel tempo, perché è sempre uguale a se stessa, non decresce come la NASPI, non ti incentiva effettivamente ad attivarti se tu non hai, come dire, una reale necessità di lasciare questo sussidio per orientarti verso un lavoro. Quindi il problema che sottolineava l'ascoltatore e che anche Nino Amadore sul Sole 24 Ore ha tracciato qualche giorno fa molto bene in riferimento alla Sicilia, cioè questo sussidio può essere un disincentivo al lavoro se noi diciamo non scindiamo bene la parte di sostegno al reddito, che in questo momento è importante, dalla parte di formazione e lavoro, che invece necessiterebbe di un percorso un po' più potente, un po' più robusto sul fronte della formazione, dell'orientamento. E quindi sì, qui può rientrare il dialogo tra le banche dati, che pure sì, è previsto. Tra l'altro, secondo me, dico, la butto lì, ma insomma, 18 mesi e con la possibilità di rifiutare due offerte sono troppi. Nel senso che con il mercato del lavoro di adesso è ovvio che a quel punto in 18 mesi tu resti tranquillamente per percepire il reddito. Io poi avrei introdotto altre variabili anche di carattere anagrafico, cioè voglio dire, non possiamo mettere sullo stesso piano, ripeto, un padre di famiglia che a 50 anni perde il lavoro o deve riformarsi e quant'altro a un nucleo familiare con un ventenne che in realtà ha molta più possibilità di andare a cercarselo il lavoro, non lo so, poi possiamo dire che tutto è uguale, va bene così, e a metterlo anche a livello di decrescita, cioè tu non puoi rifiutare la prima offerta di lavoro, due offerte di lavoro nei primi 18 mesi, a meno che non ci sia una penalizzazione nel reddito. Perché tra l'altro, guardate, non ho neanche toccato il tema del nero, anche se so che esiste moltissimo, cioè chi preferisce non avere accettare un lavoro perché ottiene tra reddito e qualche lavoretto in nero una cifra analoga. Per concludere, Valentina, su questo il tagliando dove potrebbe andare a parare, diciamo così? Il Premier Conte pare abbia intenzione di rivedere, proprio di potenziare questa parte delle politiche attive e quindi di incidere un po' di più su questa parte di attivazione. Ricordiamo un elemento: dopo i primi 18 mesi, che cosa succede? C'è un mese di sospensione del reddito di cittadinanza, dopodiché, sì, nella seconda tranche si deve accettare la prima offerta di lavoro congrua su tutto il territorio nazionale. E quindi c'è già un passaggio dalla prima alla seconda fase in chiave restrittiva. Devi accettare qualsiasi offerta di lavoro. Il punto è, le offerte di lavoro arriveranno? Perché poi è questo il tema anche, cioè non è che si generano in virtù di un sussidio o del fatto che una persona sia portatrice di questo sussidio. Bisognerà poi vedere se il dinamismo del mercato del lavoro sarà tale da offrire queste possibilità. Allora è dubito che arriveranno tutte queste offerte di lavoro, e infatti la parte di welfare che è integrata anche dal reddito di emergenza per altre tipologie, secondo me va bene, ma e va mantenuta, è un cuscinetto, è un ammortizzatore sociale, permette appunto di avere una rete di protezione e non spingere migliaia di famiglie sulla povertà o sotto la soglia di povertà. Però nel frattempo tu puoi anche migliorare la parte delle politiche attive, mettiamola così. È ovvio che non vi sarà tutta questa offerta, ma nel frattempo puoi andare avanti cercando di riformare i centri per l'impiego, avere appunto, ridurre il più possibile quello che si chiama mismatching, cioè la differenza tra offerta e domanda, in modo che quando ripartirà anche il mercato del lavoro, e immagino non nei prossimi mesi, tu abbia nel frattempo, non abbia perso tempo e abbia riformato questo. Dopodiché vedremo se Parisi ci farà sapere qualcosa, vedremo se appunto andrà avanti e verrà confermato l'insieme di incontri che ha avuto il Premier Conte con i ministri competenti, quindi la Catalfo, ma soprattutto il ministro Pisano. Grazie anche a Valentina Melis del Sole 24 Ore, le due pagine di oggi sul Sole del lunedì. Andiamo sul traffico e poi, come ogni lunedì, c'è l'appuntamento con Alessandro Plateroti per Dietro la Notizia. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento Focus Economia. Dunque, parliamo oggi con Alessandro Plateroti di un tema. Avevo annunciato già venerdì e giovedì il tema Ilva. In realtà non ci sono novità nella parte di incontro con i sindacati, che comunque definiscono allarmante la situazione del siderurgico a Taranto, e non parliamo della parte che riguarda, insomma, le trattative tra il governo e ArcelorMittal, che deve sancire l'ingresso dello Stato con la forma del coinvestimento accanto al privato. Se questo non avverrà, in base all'accordo di marzo di quest'anno, ArcelorMittal potrà disimpegnarsi pagando una penale da 500 milioni. No, parliamo della casa madre di ArcelorMittal, e lo facciamo appunto con l'appuntamento di ogni lunedì con Alessandro Plateroti. Dietro la notizia. Alessandro, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Sebastiano. Dunque, al di là della trattativa tra governo, sindacati e ArcelorMittal, se ho ben capito, tu sei preoccupato non per come andrà la trattativa, ma per ArcelorMittal stessa? Esatto, perché il punto, noi stiamo discutendo dell'Italia, c'è stato un incontro con i sindacati, ma in realtà bisogna seguire quello che avviene a livello globale di ArcelorMittal. Bene, poche ore fa il gruppo ha venduto completamente tutte le attività in Nord America. Stiamo parlando di una realtà di quasi 10 acciaierie che sono state vendute per $1.5 miliardi in contanti. La parte interessante è questa qua. Che cosa farà ArcelorMittal con questo 1.5 miliardi? Beh, una parte andrà a ridurre il debito, obiettivo che aveva annunciato già circa un mese fa, quando voleva tagliare proprio il debito di circa oltre 2 miliardi. Ma più di $500 milioni, che quello poi grosso modo che serve al libro in questo momento, non è che verranno utilizzati per investimenti o su attività straniere come quelle, appunto, le attività internazionali, ma per ricomprare azioni. Questo deve far riflettere per quale motivo, perché queste realtà internazionali, anche loro adesso, seguono il trend della finanza, cioè piuttosto che fare investimenti produttivi, e il caso dell'IVA è un po' emblematico, e andare a competere con i cinesi, che in questo momento stanno divagando in Europa e hanno ristrutturato prima degli altri, preferiscono puntare sulla borsa, ovvero sull'aumento del titolo. Oggi, dopo che si è preso della cessione della Tita in America, il titolo ha preso l'11%, che per un'acciaieria è un balzo straordinario, quasi da titolo tecnologico. E questo la dice lunga su quello che ci aspetta probabilmente nei prossimi anni. Ecco, Alessandro, vorrei capire una cosa, perché tu hai raccontato giustamente come di 1.4 miliardi che vale la cessione del 100% delle azioni di ArcelorMittal USA, con l'accordo con il Cleveland Cliffs, oltre delle azioni, naturalmente parlavo, certo, di contanti, parte di questi soldi e quindi andranno in altre rivoli, ma soprattutto 500 milioni di dollari agli azionisti tramite il buyback. Ora, al di là del fatto che 500 milioni è anche la penale che deve pagare, dovrebbe eventualmente pagare se si disimpegnerà, perché secondo te, Alessandro, ArcelorMittal, appunto, tu ricordavi quanto competitivo sia quel settore, c'è uno scontro duro tra la Cina e poi l'India, l'altro grande paese del mondo dell'acciaio. Perché in questo momento non si sceglie di investire proprio quando magari i prezzi sono anche bassi? Ecco, questo è un punto appunto sui rapporti di forza che si stanno creando in questo momento dopo le guerre commerciali. Quando noi parliamo di guerre commerciali dimentichiamo poi gli effetti. L'acciaio è stato uno dei settori più bersagliati. In questo momento c'è l'industria europea dell'acciaio, che poi stiamo parlando soprattutto di ArcelorMittal, che è l'unione appunto fra gli acciaierie francesi e quelle del magnate indiano. Beh, è quello, c'è una ritirata strategica all'interno dei confini dell'Europa continentale. Stanno vendendo tutte le attività, diciamo, più extraeuropee, e ArcelorMittal si è ritirato già, ha fatto delle dismissioni molto forti in India e in Est Europa, e adesso appunto la questione del Nord America, che cosa si racconta? Che in America sta cambiando il mondo dell'acciaio, il consolidamento dopo la crisi del Covid è stato rapidissimo, il gruppo che l'ha acquistata le attività in Nord America, questo è il gruppo americano, è già la seconda acquisizione che fa in poco tempo ed è diventato il primo operatore in Nord America, noi nemmeno abbiamo sentito mai il nome, si chiama Cleveland Cliffs, insomma noi conosciamo la US Steel, ma ecco, no, questi sono gruppi nuovi. E dicevo un'altra cosa anche, che in Nord America si prevede un recupero dei prezzi, cosa che da noi in Europa non c'è. Questo è naturalmente legato all'industria dell'auto, evidentemente prevedono, o è già in corso dopo la crisi del lockdown, una ripresa della produzione di automobili e quindi si sta concentrando il mercato. Purtroppo questo è ciò che non avviene in Europa, dove invece non abbiamo ancora sospensioni delle produzioni sia in Germania ma anche insomma un po' a macchia di leopardo in tutta Europa. Allora qual è la conclusione? Attenzione, perché quando noi discutiamo, e tu lo fai spesso giustamente, delle manovre delle banche centrali, la liquidità, il supporto per i mercati finanziari, si alimenta parallelamente questo meccanismo perverso per cui le grandi realtà internazionali sanno che hanno una rivalutazione del titolo in borsa maggiore puntando sul reinvestimento finanziario invece che su quello industriale, e questo aggrava la crisi. Quindi conviene fare un buyback come ha fatto ArcelorMittal, che non fa annunciare degli investimenti, però appunto tu ricordavi come invece negli Stati Uniti proprio il gruppo che ha comprato Cleveland Cliffs si stia consolidando, ed è molto interessante quanto ricordavi, in attesa di una ripartenza anche abbastanza forte del mondo dell'auto. Mi ricollego a quanto dicevi tu prima del nostro collegamento, ovvero parlavi dei centri di impiego, certo, di tutti aspetti qua. Questo è il momento di discuterne, perché la sospensione che c'è stata sia dei licenziamenti per effetto delle provvedimenti straordinari sulle Covid è un appuntamento che prima o poi ritorna, e crisi industriali come quelle dell'ILVA, visto la piega che hanno preso gli eventi per decisione del gruppo Arcelor, non certo per quelle italiane, lì dobbiamo dare per certo che bisognerà trovare un reimpiego per tutta quella massa di operai che ancora sperano di tornare al lavoro, ma che è sostanzialmente impossibile sotto quella soluzione industriale che era stata pensata. E l'urgenza è quella del lavoro oggi, perché comunque tutto il congelamento che c'è stato dei provvedimenti di ristrutturazione sicuramente torna. Su questo non ci sono dubbi. Allora, nel ringraziare Alessandro Platerotti, ripeto, poi vedremo cosa capiterà nella trattativa, vedremo l'impegno di ArcelorMittal, se verrà mantenuto. La penale appunto è, lo ricordavo io stesso, di 500 milioni, questo perché se dovesse venir meno all'accordo e vuole completamente disimpegnarsi, deve pagare 500 milioni di penale. L'obiettivo invece è far entrare lo Stato italiano attraverso un accordo con ArcelorMittal, anche perché ci sono altri problemi, diciamo, di carattere anche legale, ma insomma la cosa più importante è il tavolo tecnico. Il ministro Patuanelli ha assunto l'impegno di rimettere subito mano al dossier, ora che, tra l'altro, lo dico senza polemica, non si è superata anche la parte delle elezioni regionali, si può finalmente ragionare a mente fredda sul sulla presenza di ArcelorMittal nel polo siderurgico di Taranto, non solo tanto, perché c'è l'ILVA, anche una componente importante in Liguria. Qualcuno mi fa notare che non ho dato la chiusura di borsa, avete ragione, e la do rimedio subito. Molto buona la chiusura oggi grazie ai bancari in tutta Europa, ma non solo, più 2,5% Milano, più 3,20% Francoforte, più 2,40% Parigi, più 1,50% Londra, il Dow Jones più 1,70% in questo momento. Al di là dei titoli bancari, cioè Unicredit più 5,5%, Generali più 4,70%, Mediobanca più 4%, Banca Generali, Generale Assicurazione più 4%, e ancora Intesa San Paolo più 2,90%, segnalo che sono andati molto bene Amplifon più 6,14%, Saipem più 6%, ci sono indicazioni per Amplifon sul settore delle apparecchi acustici. Il settore auto va bene in generale, ne approfitta Fiat Chrysler più 4%, di negativo troviamo solo Atlantia meno 1,15% tra i titoli di maggiore capitalizzazione, perché lì pesa lo stallo nelle trattative con la CDP, la richiesta, ripeto a mio avviso più che legittima, di avere una malleva sulle cause pendenti che potrebbero essere fatte qualora appunto CDP entrasse in autostrade per l'Italia. Però non vuole pagare, diciamo, per responsabilità o per cause legali della precedente gestione, quella di Atlantia. Noi ci risentiamo domani con anche l'approfondimento sul settore moda. Oggi chiude Milano Moda, l'avevo promesso, slitta a domani. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.